Ma hai cambiato radio già, Cla, solo per curiosità. No, no, non ho toccato niente. Guardati Mickey Gain, allora, mai non te ne sei accorto, sei troppo sacco. Ma se non ho toccato niente, ho già saturo. Sono col Cobra, sto usando 5 watt, 10 modulati, cosa... Io sento a te saturo, se sento molto saturo a te io. A Tonino lo sento bene, io non ho toccato niente. Non sono abituato a toccare niente io. Ma non è che sei fuori frequenza, aspetta che provo a centrarti, scusa un attimo. Io Roberto lo sento come sempre. Io vi sento bene, io non ho toccato niente. Natali, tu mi senti bene? Sì. Allora, controllatevi voi, cosa fate voi, che io non sono abituato a toccare nuda. Non toccase, non toccase, io non tocco niente. Io non sento un po' metallica, più radio. Non è la tua radio di sempre. Cosa non ho toccato niente, questo è il microfono che stavo usando ieri, l'altra notte, sempre. Questo è il Tane più 3, non ho toccato niente io. Adesso mi ascolto, vediamo, ma sicuramente avete problemi voi, boh. Guarda, Cla, sembri leggermente fuori frequenza, adesso ti stavo centrando un pochettino. Guarda, non so se c'è il clarif e qualcosa con la radio. Non lo so, io non ho toccato niente, boh. 27.073.30 ti sto ascoltando. Ma se frequenti metro ce l'ho a 27.075. Cla, io non ti posso dire che sto uscendo bene, io ti sento saturo, o sei troppo spinto, boh. 5 watt sto usando? Cazzo Robert, te l'avrei detto, no? Non lo so, boh. Marco, come ascolti a Claudio? Sembra bene. Bianco, parla un attimo. Tendendo l'orecchio, sai cosa, sta provando vari microfoni lui in questi giorni, quindi io poi sto cambiando un baracchino dietro l'altro, qua li sto alternando e quindi alla fine non lo sento mai uguale, un po' per i microfoni suoi, un po' per i baracchini miei, robe, quindi non ti saprei dire, a me sembra che stia uscendo bene. Ma insomma, robe, ma tu hai problemi forti, io mi sto ascoltando in cuffie, ma stai scherzando, questo è il Tane più 3, te lo posso abbassare un pochino, te lo posso sollevare, non tocco mai niente io, ma lo state dicendo, questo è perfetta la radio, 27.075, canale 10, decimale 00. Io lo sto ascoltando bene, la verità si dica, Ciao Fabri, non tocco niente, questo è il baracchino col Tane più 3, perfetto, ma tu stai arrivando benissimo, mentre Roberto mi stava arrivando un pochino saturo, Roberto, se stai usando il 140 controllati, o quel 440, visto che l'hai fatto scoppiare con i passaggi che hai fatto mega galattici, Anche tutto Nino, controlla, perché siete voi il problema, io non ne ho problemi qua, Guarda, questa è la potenza bassa del Cobra, ora 1, 2, 3, 4, 5, e questa è la potenza alta del Cobra, e non cambia assolutamente niente, guarda, cambia sì la modulazione, rimane più corposa, però non ne ho io di problemi. Allora, Claudio, io ti sento, però la radio è leggermente diversa da quel che ti ho sempre detto, invece io la sento leggermente metallica, appunto, bomba, per adesso è perfetto. Sì, però scusate se mi permetto. Allora, la modulazione va bene, è che meno bassi, più acuti, cioè, ma probabilmente il tipo di apparecchio che sta usando, però non è né distorta né alta né bassa, è chiara, è sempre buona, ma ovviamente un po' diversa da come la sento io, però va benissimo, ha leggermente meno tonalità bassa, ma quello è un problema di apparecchio, di tutto, però è sempre forte, io a me qua non disturba. Infatti Fabri, loro sono abituati a sentirmi sempre con una radio, io del radio ne ho tante, Tony, ho più radio che scarpe, capito? E più microfoni che lacci di scarpe, quindi ogni tanto mi va, ne accendo una e la uso, però non mi devi dire che sto uscendo male, mi devi dire Claudio, la tua modulazione è diversa da quella che stavi usando poco fa e ti do d'accordo e sono d'accordo con te, ma non mi puoi dire che esco male, perché io non sono mai uscito male di radio, nel modo più assoluto, sto molto attento a queste cose, posso uscire basso di segnale che poi neanche quello, però questa è una bellissima radio, un Tane più 3 con un Cobra 200 DX, e va molto bene Tony, hai capito? La modulazione è diversa da quella del 440, non è uguale, però non mi dire che sto uscendo male, fuori frequenza, cazzo, chiami voi vecchi, fuori frequenza, e frequenzimetro cosa c'è? Perfetto, non si muove neanche, va bene, dai, ok. Oh Claudio, io ripeto, è la terza volta te lo dico, io ho detto che stai uscendo male, e la modulazione ci mette diverso, un po' metallica, punto, non ho detto altro, perfetto. Audi Terriosi 7. Semplicemente diverso da come le altre volte, dicendo un po' metallica, punto, io non ho detto che c'è pure frequenza, non ho detto che c'è il salto, quello o quell'altro, guarda, ho detto Roberto, giustamente, lui si sente così, la frequenza è giusta per me, 27.05, va bene. Ma non mi puoi dire neanche che sono metallico, perché non... Torniamo al discorso di poco fa, siete tutta la sera parlando di cavi e Giulio, quello che ha detto è reale, capito? Perché è giusto così, te lo dico con... io non sono stato mai antennista, ma la carta canta e l'esperienza che abbiamo acquisito nell'ambito amatoriale ci dice sempre quello, non ci può dire il contrario. Poi che tu ci sei 40 anni in frequenza, che però non hai mai fatto quello che ho fatto io o altri miei colleghi radioamatori, questo è un altro discorso. Quindi tu a me mi puoi dire che la radio è diversa, ma non mi puoi dire che è metallica e che manca niente, ok, c'ha molti più acuti e basta, bisogna dirle bene le cose, metallica è un altro tipo di cosa, ok, perché questa non è metallica, ha tonalità medio-alta si dice, capito, non metallica, metallica è un'altra cosa, metallica è come stai uscendo tu mio, come stavo uscendo l'altro giorno Gianni con l'MB più 4, quello è metallico, che sembra che parlate dentro un bidone di quelli di lamiera, ecco, tutto qua, va bene, ok, chiudiamo il discorso, io mi ascolto prima di entrare Tonino, non entro per chiedere controlli in radio, non gli ho mai chiesto, a meno che non stia facendo prove tecniche di prove di microfoni. Ciao Fabri, e allora, chi te si fa attendere? Niente, sono rientrato e stavo leggendomi una cosa, ho acceso qua perché stavo vedendo due cose, sono rientrato, era al mare e stavo fuori dalla casa al mare che ancora non l'avevo aperta e sono sceso oggi dopo questo inverno, niente. E poi ho dato un'occhiata a quell'apparecchio che sta mettendo la posta di carriera, non ho c'è lì fermo, prima mi viene anche male, ma c'è un problema sulla scheda, con la scheda lì, trovare questi perché è un macello, non so se sarà possibile aspettare più avanti che me ne entra uno con una scheda dove posso recuperare qualche ragnetto o fare dei controlli sulla scheda, oppure lo faccio fuori, lo vendo e chi magari ha qualche scheda lì se la cambia e se lo fa rimettere a posto, che ci vuole troppo tempo, ha più di un difetto, mi ha dato più di un difetto e quindi ci vuole troppo tempo a ripararlo, rischi di mettere in mano una cosa e la unit, la scheda unit è partita, quindi sarà molto difficile metterla a posto. La scheda unit è una brutta gatta da pelare, se ti ricordi anni fa quando hai cambiato il frequenzimetro al mio me l'avevi detto di stare attento e ti giuro che qualche volta l'ha fatto anche a me quel difetto, di azzerarsi il frequenzimetro, di non ricevere più, le davo un colpettino e si riprendeva, poi non me l'ha più fatto, spero non me lo rifaccia perché sicuramente anche lì sta andando a farsi fottere quella la scheda. Vabbè, minchia, ci rimarrà un bel male, porca miseria che... però lì c'è la radio difetta, è inutile dargliela, sennò cosa fa? Sta a tira e molla, sta... No, ma poi la stavo controllando, adesso poi darò un'altra occhiata, in questi giorni mi viene male, la stavo controllando, praticamente in trasmissione usciva in AM, però in ricezione non usciva, poi il difetto l'ho trovato del colpettino, era un falso contatto sul frequenzietto, però quello è un altro difetto, quindi un difetto stranissimo, quindi già trovare quello non ha senso. Poi in effetto, e poi rimane in trasmissione la radio direttamente, poi non ho visto se vatti però un pare che non è lì, però c'è, quindi c'è qualche impazzito, qualche cosa lì su quella scheda lì, quindi no, non è così semplice metterla a posto, anche perché ne inizi a cercare, anche se spendi tanto di quel tempo, poi magari decidi che vedi intenzioni sbagliate di cambiare un ragno, ma dove cavolo trovi un integrato del genere? Non lo so, non è semplice. E poi magari altre cose, no, adesso vedo un po', la faccio pure così, per parte di ricambio si arrangia così, perché non ho proprio tempo di mettere mano. Signor Marattino, va bene, ma quando sono radio così ci devi buttare troppo tempo per trovare un difetto che non è dei soliti, è un difetto molto strano, non me l'aveva mai fatto, quindi non so se c'è il tempo, però vabbè, in qualche maniera qualche altra radio me la faccio entrare e gliela do, dai, qualche altra cassa già mi entra in mano, lo sistemo e glielo presto, non è un problema, un po' di pazienza deve avere, ma già mi qualche cosa gliela organizzo. Kappa Fabri, vabbè dai, piano piano già qualcosa già gliela sistemi, ok. Va bene, allora ti lascio fare, dai. Avanti Marco, riprendi per i saluti a Fabrizio, poi fai girare. Marco? Tonino, riprendi. Ciao Fabri, ben sentito anche a te. Ma io vedo una portante, Rocna, Santiago Nove è fissa, non mi dica propagazione. No, non so se però qua è 7, Tony, come sempre. Quella portantina Santiago 7 io c'ho. A voi vi arriva un po' più forte di me, non lo so, sicuramente è sempre la solita che ogni tanto parliamo, diciamo, forse nella vostra zona, non lo so. No, la zona mia non so se sarebbe arrivato più forte, però non vi corca neanche il pelo, quindi. Ma neanche a te assolutamente, ui. Santiago 7, tu sei 9-10 liscio così, quindi non c'è problema. Va bene, capito Tony? Non ti spaventare, quando tu mi senti con la voce diversa vuol dire che io sto usando, io adesso posso spegnere questo, attaccare il Polmar per esempio, c'è un altro tipo di modulazione, attaccare il Royce, usare lo standard, usare l'altro mio, l'Elbex, ne ho tanti baracchini, sono tutti collegati con i microfoni, quindi man mano che magari mi va di accenderlo faccio due passaggi, quindi è chiaro che per voi la modulazione è diversa perché siete abituati a sentirmi col Kenwood, però non è che posso usare sempre quella radio, capito? Mi va anche di usare ogni tanto questi giocattoli, insomma questa molto giocattolo non è, perché è una bella, un bel veicolare, il Cobra 200DX. Va bene, Roberto Quadrato che fine ha fatto? Robè, sei diventato tondo stasera. Comunque, dai, qua. I miei scorsi non sono quello, giustamente hai cambiato apparato, abituato a sentirti col keyboard e usare adesso il Cobra. La tonalità è leggermente diversa, io che noto la piccola differenza, tutto qua, non ho detto che stai riuscito male, non l'ho mai detto. No, ma a me ha fatto ridere Roberto, ma detto sono fuori frequenza, sono fuori frequenza. A parte il fatto che questo fuori frequenza non penso che sia, perché è in perfetta esonda, io faccio anche collegamenti in 10 metri con questa radio, figura, è perfetta veramente, anche in banda laterale c'è una potenza strepitosa e poi c'è il frequenzimetro, Tony, quindi e non è che balla, è perfetto, Il fine corsa è il clarifier, tu immaginati che è centrato a zero, ok, il fine corsa è centrato a zero, quindi già da lì te ne accorgi, molte radio mi sono capitate in mano, il clarifier magari andava un po' più a destra, un po' più a sinistra, il fine corsa è tutto girato al contrario, questi sono centrati, sono completamente a zero, capito, quindi va bene, dai, non avevo dubbi, poi è nuovo la radio, è fiammante, quindi, però non vuol dire niente, quello è assolutamente, non torniamo al discorso di prima. Ma Giulio è andato via, Gianni, ma Tony, c'era qualche don altro, a parte Fabrizio, c'è tanto lì in laboratorio che sta facendo, c'è rimasto qualche don altro qua? Io sto digerendo. Non farmi il rottino in faccia, per favore. Sì, una volta facevo di peggio, se ti ricordi. Già mi ricordo, è certo che mi ricordo, alla grande mi ricordo. Va bene, ok, comunque dai, già tutto procede bene. Allora io però me l'avete fatto toccare il microfono, la massa ve ne scenda, me l'aveva regolato benissimo, eccolo qua, così va, devi andare, ecco. Devi andare così, con questa voce, Tony, capito? Già va bene lo stesso, dai, qua. Non ti ho mai detto che stai uscendo male in radio. Da quando ti conosco non ti metto, c'è la radio brutta, ma non l'hai detto. sei brutta, io sono il tipo che non lo penso, dico, dico, stai uscendo male. No, io sto, grazie a Dio, dico la verità e basta, no, non mi conta nulla di se stai uscendo bene o male. Stai uscendo bene, stai uscendo bene, chiuso il discorso, a parte mia. Poi la modulazione era diversa, punto. Al centro leggermente metallica, perché è diversa dalla modulazione del keyboard, a questo qua che stai usando. Chiuso il discorso, boom, basta, no, non c'è altro. E io con questo passaggio mi saluto perché mi stava chiamando che il carico è pronto e quindi mi devo fare un precarico batteria. Semmai o ci sentiamo più tardi o ci do pazienza. A domani, state bene, ciao a tutti, ciao Marcolino, ciao Fabrizio, ciao Claudio e chi c'è altro in volta. Ciao Tony, ciao ciao, no assolutamente, no, figurati, non è successo nulla, è che sento spesso questa cosa, ma purtroppo dovete cercare di capire, io posso cambiare radio ogni 5 minuti, o cambiare microfono, sto usando baracchini eccetera, e quindi la modulazione cambia, ma dal dire stai uscendo male, al dire la modulazione è diversa, sono due cose completamente diverse allo stesso tempo. Dai. Roberto ha detto addirittura che ero fuori frequenza, caspita. Vabbè, mentre lui invece stava saturando a morte, non so se stava usando il 140 che è salito come potenza all'impicco visto i passaggi megagalattici che stava facendo. Avanti Marco lì, dai, un altro passaggio e poi me ne vado a cenare anche io. E poi ve la prendete il QSO perché non accendo più, Guardo la TV e poi domani ce ne andiamo a Trabacco, ok? Vai Marco, c'è anche Fabrizio, non so se l'hai salutato, vai. Eia, eia, ciao Fabrizio, scusa se non ho salutato prima. Ehi, una volta con Giulio a Giomaggio faremo per la storia del fattore di velocità del cavo. No, perché le dice la regola è quella, ed è vero, però ho detto per questa ridicola installazione CB, cosa vuoi che cambi? Alla fine non cambia nulla. Anche per i metri di cavo, io ho sempre messo metri a caso, non stavo a tarare il metraggio giusto. Ho detto come viene la taratura? Viene, che sia sull'1 che sia sul 40 al centro banda, tanto le 5 ottavi hanno una larghezza di banda abbastanza buona, quindi il problema non si pone. Vai Fabrizio. No, no, rimango in ascolto io, che sto facendo una cosa. Lascio lavorare a Fabrizio che sta lavorando, che quello lavora sempre per voi anche. Oi, oi, oi, fai Fabrizio, siamo qua. Allora, adesso praticamente ho abbassato la potenza, Marco, e questo lo sai già, questo modula con più di 100 watt, però c'ha due regolazioni, bassa e alta. Adesso sono con la bassa potenza, però ho agganciato l'amplificatore. Vedi che non cambia la modulazione, è perfetta, no? Sì, come prima, cioè ho abbassato il volume appena io, perché il volume è alto, Comunque lì all'ancora, praticamente tu bene, Gianni Ropiorun bene, Roberto un po' più basso di segnale, Natalino era Santiago 0, Santiago 0 Radio 2. Sono rientrato. Va bene, Roberto, però io poi questo passaggio poi chiudo. Cosa stavo dicendo? Sì, ma vabbè, tu sei andato lì a quell'ora, è chiaro che c'è un sacco di movida, normale, vabbè. No, io ti ascoltavo bene, già quando eri fermo eri Santiago 7 e Radio 5, quindi arrivavi più o meno come io arrivavo a te, però ero con la potenza minima della radio. Ok, avanti Roberto. Che è rimasto qua tra te e Marco? Tonino ha chiuso, poi c'è Fabrizio in QRX che sta facendo cose. Hai cambiato radio poco fa, ma stavi andando al 140? No, sempre questo, il 44. Però evidentemente l'hai forzato troppo, perché ti sentivo molto gracchiante, molto, molto cupo, quasi saturo. Evidentemente ha scaldato parecchio mentre facevate i passaggi con Giulio, però va, adesso già sta andando bene. Ma già l'hai visto com'è, la potenza mia è sempre quella, non lo so, non lo tocco mai, solo quando va in FM se ne va a manetta, ma è sempre così, sempre quella bassa, microfono a 1, non ne fa, probabilmente abbiamo fatto passaggi molto lunghi, non lo so, Mari avrà scaldato un pochettino. C'è anche Fabrizio qua? Sì, ha detto che rimaneva in QRX, quindi mi ascolti bene, come ha confermato Fabrizio, forse ci avevi qualcosa spostato il tubo. Adesso adesso ti ascolto perfettamente, Cla. Poco fa io ti sentivo tipo compresso quando tiri troppo la cosa, la potenza. Più tirata di adesso, cioè sto andando con 100 watt e non mi senti bene. Poco fa che ero con 5 mi sentivi male, vabbè. Era un problema tuo. Stava scoppiando quella radio perché anche tu non stavi uscendo bene. Poi Tonino ha confermato, si è corretto, ma non è che non ti ascolto bene, io ti ascolto benissimo, anche forte. Però la modulazione è diversa. Allora, quando io cambio radio, ditemi la modulazione è diversa. Cosa stai usando? Io ve lo dico. Ma non mi dite che sto uscendo male, perché io l'unico difetto che posso avere in tutti i miei difetti ecco stare molto attento alla modulazione, ma io sono entrato gracchiante o brutto, a meno che non stia facendo delle prove di microfono come ho detto poco fa, capito? Va bene, e questo tranne più tre c'è molti acuti, molti, però a me piace. Avanti Marco Lì, dai, io vi saluto e nel caso ci si sente dopo, se ci siete, ma non mi trattengo molto perché domani mi va a stare presto per andare a Urbia. Quindi vi saluto, ciao Marco, ciao Fabrizio, buon fine domenica, anche a te Roberto, noi ci vediamo domani mattina, così mi dai quello strumento e poi mi faccio quei controlli sul tetto. A tutti quelli che sono qua sul 10 in ascolto, dai, cambio per Marco, ascolto i finali e poi chiudo. Ciao a tutti, buona serata. Io, ciao Claudio, dai, buona serata, buon tutto. Ehi, probabilmente secondo me quando spieghi la roba, magari parli più forte, capita a Giulio, basta quando uno si accalora a spiegare la roba, parla più forte e potrebbe leggermente saturare. Ok, va bene, dai, buona serata, buon tutto, vai Robè. Ehi, ciao Claudio, buon tutto, dai. Buona cena se devi farla, buon lavoro. Però, vabbè, tanto di passare domani, ce l'ho già nel corridoio, così la mattina quando lo prendo, quando scendo te lo direttamente, dai, ti dico già, Cla, è molto preciso perché ho fatto la prova col K, è perfetto. K, lo senti, come lo senti tu Marco adesso in questo passaggio a Roberto? Mi la grattugia, ci vai Robè. 1, 2, 3, prova radio, canale 10. Al solito, non troppo forte, né troppi acuti, né troppi bassi, sempre bilanciato lo sento. Bene. E allora questa radio volevo, perché ogni volta che tolgo e inserisco la NL sento Roberto un po' più chiuso, vabbè, è un problema mio di ricezione comunque, non è un problema tuo. Ok, vi saluto di nuovo a tutti e ci sentiamo più tardi se ci siete, altrimenti a domani. Ok, ciao, buona cena. Ciao. Chi è rimasto qua Marco su questo canale? L'importante, boh, e hanno chiuso tutti, sono andati a mangiare, mi faccio, devo portare un pezzo di pizza a mamma che me l'ha chiesta, casomai, boh, più tardi se ne voglia, comunque mi sono uscito dopo la prima volta che c'erano Protores in 2 mesi, stavo per baciare il suolo come il Papa, però era la volta buona che mi infettavo col coronavirus. Guarda Robè, così sono con la potenza minima come poco fa, mi senti bene lo stesso? No, adesso ho lo stesso difetto di prima, Cla. Cazzo di Robè, allora con la potenza minima questa radio non va più. Ora. E come mai? Boh, è impossibile, andava così bene. È gracchiante, Cla, la radio è 5, è chiara, però quando aumenta la potenza è pulita, per qua fa quello... E allora il microfono, dai, poi lo controllo, dai, poi lo controllo, ok. Ok, Marco, ci hai ascoltato a tutti di lì a Porto Torre. Marco? Io aspetto, sto parlando da mangiare a mamma. Ah, scusami. Vediamo se c'è qualcuno rimasto qua sul canale 10, che oggi c'è stata una bella discussione con opinioni completamente diverse. Ecco qua, anch'io ho notato una differenza, adesso che Claudio ha toccato qualcosa. Sì, l'ho notata. Io non ho l'orecchio allenato, comunque per il baracchino. Aspetta Marco che rifacciamo la prova. Allora, così è la potenza bassa della radio, ok? Mi dici com'è la radio. Mentre così è la potenza alta. Secondo te? Oh, vabbè, quando è più bassa è a questo baracchino specifico, a questo baracchino, a questo orecchio, potenza bassa è come se fosse leggermente saturina, mi non. Porca miseria, come te lo posso spiegare? Sì, come meno cristallina, una qualità leggermente peggiore. Invece così va bene con la potenza alta, confermi? Eia. Eia. Sì, è come leggermente più sporca con la potenza bassa. E non lo so poi da cosa dipenda. Comunque tu metti l'alta, fottidini. Vi meglio. Io non raggio proprio a spaventare, ne ho potenza da usare. Va bene, dai, uso la potenza alta, allora qui siamo a posto, dai. Di nuovo, ciao a tutti, a dopo, altrimenti a domani, ciao ciao. Via, ciao qua. Bene, vabbè, io adesso anch'io sto mangiando qualcosa, ecco, ogni volta che torno mi fa male un po' leggermente la schiena, per via della scoliosi, che bolla, comunque troppa gente, assalto al bar, non sono riuscito a pigliarmi un caffè e ciò non è bello, comunque finalmente, era anche ventilato, a Porto Torres, Trattamona non ti potevi fermare, non c'era un posto, un parcheggio, diciamo, non vietato, tutto t'ho preso. Sì, lo so, ma è normale che sia così, cacchio. Mi hanno fatto un altro, dimmi una cosa, che ci hai ascoltato tutti dei doveri? Sì, allora, tipo Claudio e Gianni, tipo Santiago Otto. Poi lì sai cos'è, quando sei in riva al mare, quando sei in riva al mare, io vedevo questo fading leggero, scendevano in Santiago, salivano in Santiago, però la media era 8, faceva su e giù, capito? Non so, l'effetto delle. E tutte le volte che sono al mare vedo in ricezione questo effetto qua. Quindi loro due, Santiago 8, tu eri tipo 7, 6 e mezzo 7 più o meno, sempre la media del segnale, Natalino era 0, Radio 2. In radio mi ascoltavi comunque? Sì, benissimo, benissimo. No, non c'era un problema, lì io ero in antennino, quarta onda. Giulia levava Santiago 5 con picchi a 5 e mezzo, quasi 6. Ascolta, adesso invece la modulazione va bene? No, qua. Non va bene, lo stesso. Quindi la potenza minima è un cesso, ho capito. Quindi devo tenerla così. Devo tenerla così, con questa potenza qua. E questo non mi piace. Claudio, diciamo col cellulare non è che vengo la registrazione, avrei voluto far sentire la registrazione e poi mi dici se c'ho ragione. Sembra il contrario, normalmente lo fa a bassa potenza bene e ad alta satura, qua sembra che ti sta mancando qualcosa, te la sta bloccando la modulazione. Sarà la batteria che sta andando a farci fottere, non lo so. Vabbè dai, poi cambio microfono e magari facciamo qualche prova, dai. Ok, ciao a tutti che vado a mangiare, gappa. Eia, ok, dai. Ho preso anche io la pizza, Marco, veloce l'ho mangiata, così alla Bramido. Ok, no, ma c'era un sacco di gente, ho visto anche delle immagini, degli amici mi hanno mandato gente al coso. Mia figlia col fidanzato sono uscito in canoa di lì sotto Balaiera. Oh, ecco. Mamma mia, la propagazione sta arrivando a me. Bello in canoa, bello. E vabbè, io non mi fiderei tanto perché la vedo troppo stretta la canoa. Ho paura che si ribalti. Vabbè, ma io sono un caso clinico, a me mi devi dare il gommone minimo per essere stabile. No, non è vero, una lui e una. C'è una fidanzata e una lei. Lascia nuotare mia figlia bene, non ci sono problemi. Ma l'acqua è un po' freddina, devi stare un po' vicino alla costa senza nuotarti troppo. No, vabbè, dipende tutto da cosa fai. Se ti metti a fare lo scemo col mare agitato, magari devi stare un po' più attento, ma non c'è problema. Oggi, poco fa, un'oretta fa c'era questo tedesco, la prima volta che vedo un tedesco che fa il break, perché normalmente non entra nei mai, ha chiesto il break Germany. Ho notato, però certe volte sai chi sono più altezzosi? I francesi, perché magari chiamavo dall'Italia, no? Oh Italia, avanti Italia, insomma i francesi invece tutti quasi anche lineari, fanno finta di non sentire, capito? Gli inglesi già sono, se trovi quelli giusti già ti fanno entrare in rotta, quelli in FM, mi. Sì, hai detto bene. I francesi a me non mi sono mai piaciuti per niente, tra pareti, solo le donne sono mediamente belle donne, ma come nazione non mi è mai piaciuto, perché ho avuto anche contatti, lasciamo perdere. I tedeschi sono molto riservati, sono delle persone riservate, se ti fanno entrare, ti fanno entrare, sono molto gentili, cosa. Però molte volte mi è capitato con i tedeschi, no Italia, non Italia, sono un po' razzisti, certi, secondo chi ti capita, mentre gli inglesi sono sempre mediamente educati, gli spagnoli sono peggio di noi, maleducati peggio di noi, e poi sono in gamma anche i belgi, dai, quando parli con quelle nazioni lì ti trovi bene, poi i serbi, tutti i paesi balcanici quando sentono Italia gli si illuminano le orecchie. L'est Europa, sì, gli spagnoli sono come l'Italia, proprio latini, molto mediterranei, molto casinisti, eccetera. E ogni tanto qualche tedesco lo trovavi, no? In Italia spaghetti mandolino, mafia, però vengono a fare le vacanze qua, però poi, capito? Guarda, se tu c'hai tempo, io me li ho guardati tutti, cosa pensano? Ci sono, c'è questo tipo, uno studente, diciamo, parla molto bene le lingue e va in giro per il mondo, perché va in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, e lui cosa pensano dell'Italia? Trova le persone e le intervista, dice, cosa pensate dell'Italia? Tutti ne parlano, cacchio, benissimo dell'Italia, nel senso siamo molto socievoli, siamo pieni di vita, siamo... non c'è uno che parli, ma i tedeschi poi intervistano le donne, soprattutto tedesche e cosa, tu sposeresti un italiano subito, i nostri sono tutti silenziosi, gli italiani, dice, cos'è che non ti piace degli italiani? Dice, tutto ci piace, però parlano troppo veloci e muovono molto, fanno molti gesti, contrario a loro, loro parlano soltanto se cercati, molto lenti parlando, mentre noi siamo aburutusi. Sì, sì, più a sud vai, più sono casinisti. Molto, sì, gesticola molto, ascolto, secondo me quell'uomo del sud, dai, in Italia. Poi, vabbè, certi fanno più scena in particolare, anche nelle situazioni viterali fanno molta scena, eccetera. Tipo le sceneggiate napoletane, no? Io sono prevenuto per quella zona lì comunque. No, ma poi le cose belle quando poi fanno le domande, tu dove vedi la cultura generale di un tedesco, è molto raffinata, molto acculturato il tedesco, se gli chiedi cose sull'Italia ti sanno dare informazioni, qualche personaggio storico, anche politico, mediamente tutti ti rispondono all'Italia. Sulla cosa più ridicola, gli Stati Uniti, ho visto delle interviste in Florida, questi qua, degli ignoranti, gli facevano la capitale dell'Italia, e loro, boh, non lo so, allora gli dice, dei nomi, gli hanno fatto Capracotta o Roma, tutti pensavano Roma non può essere Capracotta, il 90% diceva Capracotta. Aspetta, se volevo dire qualcosa ho perso il filo, niente, c'ho il buffer che si è svuotato. Vecchio dritto, mia brracco, avanti brracco. Avanti Giovanni. Ma era Giovanni o Natalino? Giovanni, dal segnale me ne accorgo, 9.45. Giovanni, ci sei? Ciao Robe, come va? Quell'elemento l'hai rintracciato? No, non lo ritraccio, ti ho detto, c'era solo se entra, qua la notte, ieri notte per dire c'era, se in realtà io me ne sono andato, normalmente entra la notte lui, ma io l'ho sentito in tutto 5 volte a Fabio, ci ho parlato io, non lo conosco personalmente. Ho capito. Ascolta, a proposito, ma quando tu entri nella stazione spaziale, no, tu dici che si vede la Terra benissimo, io vedo, diciamo, l'immagine è confusa, non si capisce né quando è sulla Terra questa, quando riprende sulla Terra o quando riprende sul mare. Devi ingrandire quell'immagine lì, certo, cioè tu vedi tutta la Terra tutto ad un pezzo, c'hai un campo visivo di 5.000 km, per forza non riesci a identificare cosa, poi ci clicchi sopra, ingrandisci e se sei in una zona, per dire, in un continente, puoi ingrandire e riesci a identificare qualcosa. E non tanto detto tra noi, dai. Comunque ho visto che stasera sta passando, spesso passa al di sopra dell'Italia, cioè in Germania, in Ucraina, è raramente passa sull'Italia, chissà perché, boh. No, no, no, aspetta, questa settimana passa mercoledì ed è molto, molto il massimo della visibilità, credo alle 11 di notte, non mi ricordo se è mercoledì o giovedì. Tutti gli altri giorni della settimana successiva passa sempre di giorno, non possiamo vederla noi, però o mercoledì o giovedì c'è il picco massimo di visibilità, intorno alle 11 di notte. Sempre che non sia nuvoloso, naturalmente, naturale, no? Come? Sempre che non sia nuvoloso, se no non vedi nulla. No, l'estate è già è abbastanza pulita, tutta la settimana fa bel tempo, dai, cioè è abbastanza visibile, le stelle già, vediamo le stelle, non vediamo il coso, ma che non ci sia una giornata cupa, ma non è il caso di adesso. Ascolta, che c'è in frequenza, fammi in frequenza in... parlando con te, da. Allora c'è Marco Condor, è il Condor Pass, avanti Marco per Giovanni. Eia, ciao Giovanni, ben sentito e ben entrato. Eia. Anch'io, anch'io vorrei tentare di vederla uno di questi giorni, quello sul terrazzo, proprio sul terrazzo del palazzo, non questo, un altro, col binocolo perché non ho altro. Poi ti chiedo roba, c'è il telescopio. Un binocolo 8x60, cercherò di dare un binocolo a vedere se riesco a distinguere qualche particolare. Dai. E che ripeto, è bella grandetta rispetto a com'era la LEM. Ho visto delle la comparazione delle grandezze, ma scusa la LEM, cavolo sto dicendo, la MIR, perdonami, la MIR in confronto era come il gabinetto della stazione spaziale, era un buco. Sei presente, 105 metri per 60, un campo di calcio, la MIR era 45 metri di grandezza. Sì, poi magari lo spazio abitabile era anche molto meno dentro, tra strumentazione, serbatoi di ossigeno, eccetera. Dicevo, vabbè, tu telescopio usi anche. No, il telescopio è praticamente impossibile perché cammina talmente veloce, a quando accentrarla col telescopio? Solo con un binocolo lo fai e basta. E la devi seguire perché passa velocissimamente, dura 3 minuti il passaggio. Fa un arco visivo per dire di 80 gradi e lo vedi per 3 minuti. Col telescopio è impossibile, no? Non ce la faresti mai perché è troppo veloce. A quando accentrarla se n'è già andato. Lo credo, un razzetto è, quant'è? Che velocità, una velocità folle, che roba che puoi fare fuori dall'atmosfera, nell'atmosfera prendi fuoco. No, 27.500 km/h, guarda, per farti un esempio, io avevo, non era il mio, ma avevano prestato un telescopio ancora più grosso del mio, quando c'era la cometa Halley, stiamo parlando negli anni 80, 87, 88, dai, quegli anni lì, sono salito su da mio fratello a Montebianchino, che lì c'era poco inquinamento luminoso, per seguire la cometa dovevi stare correggendo ogni secondo, perché sennò vedi, proprio vedevi la scia, tipo quando passa un razzo, un aereo, che lascia il fumo di scarico, uguale. La dovevi seguire, se no la perdevi, talmente è ristretta la focale del coso, dell'oculare del coso, del telescopio. Sì, infatti col telescopio è vero, quello va bene per le stelle, ma quello è troppo veloce. La cometa di Halley era quella che passava ogni 76 anni, quindi forse non la vedremo più, forse, a meno che non cambiamo 140 anni. Sì, no, ma ne passano continuamente di comette, ce n'era una prossimamente, dovremmo vedere, adesso non mi ricordo quando, poi ce n'è un'altra a novembre, ce ne sono state l'Halley, però era, la vedevi bene a occhio nudo, poi col coso vedevi proprio il fumo, non il fumo, la scia, chiamiamola scia, non fumo, proprio che sembrava un jet quando parte un coso, un missile che lascia la scia, vedevi proprio questa specie di scia che si muoveva, era bellina proprio, ed era poi un colore candido era. Che poi adesso rilancio Giovanni, un attimino, no, volevo dire una cosa, una volta un amico, stavo parlando delle comete, no, della scia, cioè lui credeva che fossero tipo meteore quando si incendiano nell'atmosfera, no? Ha detto no, guarda che la coda è sempre opposta al sole, cioè c'è il sole a sinistra, la coda è a destra, ma non segue la velocità, la traiettoria della cometa. Quelli sono meteoriti che entrano nell'atmosfera e bruciano e lasciano la scia di fuoco, quella è un'altra cosa. Non lo sapevo. No, le meteore è un'altra cosa, sono dei curti che sbattono contro l'atmosfera terrestre. Le cose invece sono particelle, c'è anche del ghiaccio nella cometa, particelle di pulviscolo, sono lunghe anche milioni di chilometri secondo le comete che sono. Quando parli di quella roba mi viene in mente sempre quel film con Bruce Willis, Armageddon, ti ricordi, un sacco di attori famosi. Se arriva il sasso che dico io, altro che missioni spaziali e perforare, mettere la bomba atomica al centro dell'asteroide, oi. Oh, Robert. Dimmi qua. Guarda questo microfono, ce va meglio? No, da parte mia no. Da parte tua no. Oggi sei proprio a noi. Vabbè. Questo è quello che abbiamo cambiato l'impedenza. Vabbè, l'ho abbassato un pochino. Meglio così o posso metterlo anche così, guarda. Così va meglio? C'è qualcosa là, tipo che sta saturando, io non so cosa, cioè, che problema ci possa essere perché non ha logica, cioè come tu attacchi ritorni pulito, perfetto, così a bassa potenza ti sento tutto compresso, non so per quale motivo, non ha logica. Io non è che sono attaccato, tiro sulla potenza della radio, non lo so. Allora, così sono a potenza alta, guarda, ho cambiato tipo di microfono, così va meglio. Ma non è il Turner questo, quello che utilizzi sempre? No, questo è il Turner più 2, però non è il Turner più 3. No. Quell'altro Turner era meglio, Cla. Fai un passaggio, Claudio, potenza alta e potenza bassa. Guarda, questa è la potenza alta, potenza alta, potenza bassa. Io sono in cuffia e non trovo nessun cambiamento. È per quello che rimango perplesso, perché non sento niente. A parte la timbrica della capsula, l'ho anche attenuato, però non sento saturazione. È una timbrica che può piacere, sempre il solito disco, che può piacere o non piacere secondo me. Magari io preferivo l'altro, quello di poco fa. Ecco, quello voglio capire io, sai, quello là a medio va bene, è una prova che stavo facendo perché di microfoni ne ho tanti e volevo capire. Ecco, quindi questa è la potenza bassa, mentre questa è la potenza alta. Ecco, adesso la sto notando. Allora, questa è la potenza alta e questa è la potenza bassa, sì. C'è una leggera saturazione, non capisco perché. Questa invece con la potenza alta non lo fa. E sei presente, Claudio, la radio non è fortissima, cioè come intensità di radio non sei forte, nel senso non dipende dalla saturazione del coso, che è troppo forte la radio, perché se sei troppo forte la radio ti dico abbassa, qua non sei più forte, anzi potresti teoricamente alzare un po' il luzzino, è proprio un problema di coso, di disadattamento di qualcosa. Non lo so, allora solleviamo un pelino, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, ecco qua, così, diciamo che è a 7, microfono a 7, così. Vabbè, non cambia niente la modulazione, è sempre quella, è come che c'è il naso che ti metti, il naso tappato, così, strozzata, c'è cioè solo medi e medi acuti, e boh, tutto il resto non ce l'hai, mancano tutti gli acuti e tutti i bassi. E vabbè, sto provando un microfono del cazzo, diciamo francamente, però mi interessa che non sta saturando così, mentre così invece satura, ok, passaggio 1 satura, passaggio 2 non satura. No. Il problema è che è compresso, non è anche con l'altro SATA, se è compresso qua, è come attacchi, alza il livello della radio, si alza di parecchio, di molti dB, ed è molto più comprensibile, guadagni tantissimo di qualità, però a minima potenza è come che tu stai, quando attacchi un lineare, che normalmente ti brucia tutta la radio, è uguale. Ti rifaccio la domanda, questo è il passaggio con la minima potenza e non ti piace, ok? Questo è il passaggio con la seconda potenza, va bene? Sì, molto, ma molto meglio va. Perfetto, mi interessava quello, tanto questo microfono se lo tolgo e metto l'altro. Va bene, grazie, a dopo. Ehi, Giovanni, ci sei ancora? Sì, che ci sono. Aspetta, no, stavate parlando di comete, di asteroidi. No, caspita. Diciamo, le comete ci vedo lo stesso, diciamo, no? Ma le più pericolose non sono le comete, perché almeno che non entri in rosa di collisione con la Terra, le pericolose sono le asteroidi, quelle sono pericolose perché diciamo a volte sono fuori controllo praticamente, non riescono nemmeno a stabilire quale rotta c'hanno, quello è il problema, capito? Mentre la cometa, diciamo, se entra in rotta di collisione ce ne accorgono subito, gli asteroidi no invece. Cioè potrebbero reagire in modo variabile ai campi gravitazionali del sistema solare, così, tra un pianeta e l'altro. Asteroidi sì, mentre le comete diciamo, almeno che non siano, diciamo, fermi un attimo, molto piccole, diciamo, allora è un altro paio di maniche, ma come te grandi sono, appena che appaiono, diciamo, nel come si chiama, sono sotto controllo e ti dicono subito dove passano, che è in partenza e a che distanza passano la Terra pure. Ci manca solo quello, me. Tra virus, vespa, come insetti vari pericolosi dalla Cina, mi pare le cavallette pure, terremoti qua e là, sembrano le 10 piaghe d'Egitto, sembra una punizione divina. Davvero, ma punizione divina veramente, un asteroide, ma basterebbe altre immagini, ce ne sono grandi quanto la Sardegna addirittura, no? Ma basterebbe una che ti posso dire, che ci abbia, non so, un chilometro di diametro di uno scampi libero, anche 100 metri di diametro, diciamo proprio fa quasi la fine del mondo. Marco, allora ho trovato un rimedio, così va bene? Claudio, però per me va sempre bene, cioè io non sento troppe variazioni, anche se avvicino all'orecchio, ti avevo anche attenuato, qua non, cioè dopo tutto l'una vale l'altra per me di modulazione. No, vabbè, ho regolato il microfono, dai, così lo lascio stare così e non se ne parla più, perché questa è la posizione, se no così è troppo alta, vedi, invece la posso mettere anche così, la lascio stare così come era prima e va bene lo stesso. Sono rientrato. Eia, ho detto la lascio stare così la posizione del microfono, troppo alta, o posso aumentare, roba? No, da parte mia puoi anche aumentare, prova. Allora guarda, così a 2 e così è a 3. Posso lasciarla a 3? Certo, va benissimo. Ok, quindi posizione alta, microfono a 3, dai. Va bene, d'accordo. Invece adesso riesco ad andare a mangiare felice, perché io quando la radio non mi piace, mi dite che non va bene, io sono infelice. Adesso stai andando bene, Claudio. Ehi, sto scherzando. No, c'era una regolazione da fare, dai. La lasciamo così a 3 e basta, dai. Ciao Giovanni, buonasera, ben ascoltato. Riprendi tu e fai girare per me QRT. Ciao, a dopo. Questa è perfetta, come piace a me. Ok, e questa lasciamo così, sei accontentato. Gappa gappa. Di propagazione, vai Giovanni. Io stavo parlando qui, no, diciamo che per quanto riguarda la modulazione di Claudio è la seconda che va bene, insomma, anche la prima era comprensibile, anche se mi sembrava troppo compressa comunque, no? Diciamo che sia l'una che l'altra per me era comprensibilissima, naturalmente è la seconda prova che ha fatto la migliore. Vabbè, riprendiamo l'argomento spaziale, là, che a me mi interessa. Sì, Marco, come siamo? Giovanni è abbastanza preparato in campo astronomico. Cosa gli posso chiedere? A me aveva affascinato, inquietato una puntata di, non so se fosse Focus, parlavano del lampo gamma, dice la seconda potenza dell'universo dopo il Big, cioè la prima potenza, va a Napoli. Cosa hai detto? Non ho capito cosa vuoi dire. Cioè il lampo gamma, alcune stelle come collassano, no, alcuni buchi neri, perdonami, come collassano, da tutta la gravità che hanno, sprigionano un lampo gamma potentissimo, tipo ai poli, no, opposti, se, come se avesse un polo, no, vabbè. E dice una potenza distruttrice seconda solo al Big Bang, è una cosa folle, cioè da incenerire all'istante piani, sistemi solari, soli, pianeti, di tutto. Ma tu hai idea cosa c'ha di forza gravitazionale un buco nero? E la massa di un buco nero è quanto, non so quante galassie, e in un punto quanto la grandezza di un pianeta. Fatti conto cosa può essere il campo gravitazionale, ci sono delle cose spaventose. Ne hanno visto da poco un'esplosione di un coso, di un corpo considerato buco nero, perché anche lì si dicono tante cose, ma certezze non ce ne sono, perché non l'ha mai visto nessuno, perché anche l'energia, la luce viene assorbita. Si fanno, loro vanno per ipotesi, cercando a secondo della, cioè sparano delle onde in quelle direzioni di lì e vedono come reagisce, se non c'è nessuna reazione dicono qua c'è un buco nero, perché sono delle teorie collegate alla quella di cosa di Einstein, della relatività. Sono troppi argomenti troppo complicati che derivano solo per cosa, per teorie, non c'è niente di sicuro. No. Non è che non c'è niente di sicuro, adesso ci sono, diciamo, delle teorie, diciamo, abbastanza quasi certe, diciamo, non del tutto ma quasi certe, no? Il buco nero è un mostro cosmico, diciamo, da cui non fugge nemmeno la luce e si mangia il tempo anche, non so se è una cosa sembra incomprensibile, no? E diciamo che lo spazio-tempo sparisce nei pressi di un buco nero, no? Poi dicono che addirittura a volte potrebbe esplodere, forse diciamo, stava in merito a questo stava dicendo, si riferiva a Marco poco fa, cioè, a quei lampi là, no? Comunque li hanno scoperti, ci sono, anche se non si vedono, no? Perché se ne accorgono perché attraggono, diciamo, materia, se c'è una stella vicino, ce n'è uno buco nero, no? Che sta assorbendo una stella, se la sta succhiando, non so se ne do un'idea, no? Quindi da questi buchi neri, diciamo, capiscono sia la potenza e sia tutto il resto, insomma. Il buco nero è un mostro e basta. Nota bene che l'universo è nato da un enorme buco nero, così dicono, e attenzione, Big Bang, prima del Big Bang c'era un enorme buco nero, è esploso e ha creato l'universo in cui noi siamo attualmente, poi è probabile che universi addirittura ce ne siano altri, non so prendere un'idea, parliamo di infinito naturalmente, no? Però il nostro universo è nato dal Big Bang, e prima del Big Bang c'era un enorme buco nero, magari che si è ripetuto altre volte, chissà quanto, l'universo non ha mai fine. Naturalmente. Ti hai detto bene, sono cose troppo complicate da capire, poi l'universo è in espansione, cioè ci sono tante cose, ci sono dei discorsi che vanno al di fuori delle conoscenze umane, antimateria eccetera eccetera, e di spazio-tempo, conversione di tempo, perché addirittura si può dire, si teorizza che esistono altre terre in altre parti dell'universo con altre forme di vita uguali alla Terra, però in altre epoche, magari 10.000 o 100.000 o 100 milioni di anni in avanti a noi o indietro a noi. È naturale, ci sono altri pianeti nell'universo, sarebbe il colmo, cazzo. Solo la Via Lattea c'ha 100.000 soli, diciamo, 100.000 stelle, no? Si può immaginare, no? E di queste 100.000 stelle chissà quanti pianeti abitabili ci sono. E quindi diciamo, e ci sono uomini che ci hanno lasciato le penne per dire che c'erano altri mondi, tipo Giordano Bruno, e a momenti ci lasciava le penne anche Galileo Galilei, attenzione, quindi si può immaginare, ma adesso non siamo a quel punto. Adesso diciamo ci sono delle teorie abbastanza certe quasi, no, sull'universo. E poi con i mezzi tecnici ci sono delle scoperte eccezionali. sì, infatti già leggo anche io tanto di questi argomenti scientifici, io sono molto ma molto appassionato, soprattutto c'è quella rivista, non so se vi capita di guardarlo, Focus, ci sono argomenti veramente interessanti, si parla un po' di tutto, di tutti i campi, e molte volte anche di questi argomenti scientifici, di viaggi nel tempo, eccetera, eccetera. Teoricamente si possono fare i viaggi del tempo, questo è dimostrato scientificamente, e si possono fare, però non si sa come farli, perché ci vorrebbero energie strabilianti, e dove vai a finire soprattutto. In quel campo lì entriamo un po' nella fantasia veramente, in viaggi del tempo. Viaggi del tempo, diciamo, non so, può darsi fra migliaia di anni, magari, sempre che la Terra esista. Viaggi del tempo significa spostarsi addirittura da una galassia all'altra, si può immaginare quanto sia. E dicono che i buchi neri, attraverso i buchi neri addirittura si può viaggiare nel tempo, questa è una teoria naturalmente da accertare, che è un po', quella è un po' fantasiosa. Però a volte, diciamo, tu immagina nel 1900, chi immaginava che si arrivava alle scoperte di oggi, per dire, no? Tu puoi immaginare fra 200, 300 o 1000 anni a cosa arriveranno a scoprire. Guarda, scusa se interrompo Marco, che tu hai un discorso che è abbastanza interessante. 100 anni fa, più di 100 anni fa, è nata la radio, diciamo, all'inizio del Novecento. E chi è che si immaginava che si potevano trasmettere delle immagini nello spazio? La famosa televisione, le immagini televisive. Adesso ci sono gli ologrammi, io li ho visti davvero, non so se li avete visti, gli ologrammi che ti trasmettono, ti buttano l'immagine di una persona tridimensionale nel vuoto, cioè nell'aria. Io li ho visti davvero. Vero, sono veramente, per dire, 50 anni fa uno diceva, ma cos'è, i film di cos'è, Star Trek, eppure esistono, e sono delle cose che noi impensabili, se tu ti guardi vecchie riviste scientifiche degli anni 50, degli anni 60, ci sono delle cose che adesso sono attuali, e si parlava della Luna, andare sulla Luna, eccetera, eccetera, adesso si sta già pensando di andare su Marte, e queste sono piccolette, però il discorso dei viaggi del tempo sono stati fatti, ci sono degli esperimenti sono stati fatti, per pochi secondi si è andato avanti con orologi atomici, sono stati misurati gli spostamenti temporali, hanno verificato che sono stati fatti. Poi c'è quell'esperimento, non mi ricordo come si chiama, Philadelphia mi sembra, Philadelphia Experiment, non so se avete visto anche il film, quello lì si vocifera che è stato fatto veramente durante, successivamente, immediatamente alla Seconda Guerra Mondiale, non so se avete visto il film. Io sì. E quello teoricamente adesso dove c'è il CERN, a Lucerna credo che sia, dov'è il CERN, dove ci sono campi magnetici spaventosi di potenze fuori dal coso, lì stanno già facendo questi esperimenti, non sappiamo niente perché non ne dicono, però secondo me è già fattibile, diciamo, per poche cose, magari per oggetti o qualcosa del genere, per l'uomo è un po' più complicato perché ci sono un organo vivente, l'uomo, le particelle, diciamo, l'organismo, ci sono tante cose da, potrebbero modificarsi con questi viaggi qua, però hanno fatto delle prove di oggetti trasportati di centinaia di chilometri, è stato possibile farlo, come ci sono, per dire, le stampanti 3D, che per dire, tu ti connetti a un computer qua in Italia e ti arriva negli Stati Uniti il file, qualcosa del genere, stanno cercando di farlo per gli esseri viventi, di trasferire delle immagini. 10 anni fa, 20 anni fa, fare questo discorso di trasmettere delle immagini fisiche, diciamo, tridimensionali, era un po' fantascientifico, eppure adesso è una cosa abbastanza normale. Vabbè, io la vedo dura sul teletrasporto, mi sembra troppo tosto. Purtroppo sono delle scienze troppo, troppo complicate, però ci sono degli scienziati che stanno studiando da tanti tanti anni, noi ufficialmente non sappiamo niente, ma magari esistono delle tecnologie aliene, tante cose noi, chi crede agli UFO, agli extraterrestri, io ci credo tantissimo, mi prenderanno per scemo, però esistono degli studi negli Stati Uniti, in Russia, dove si dice che ci sono queste navicelle spaziali, eccetera, eccetera, tipo Aria 50. 51, cosa del genere, di lì studiano questi oggetti extraterrestri e si chiama ingegneria retroattiva, cioè da quello che vedono pronto cercano di carpirne le cose, come hanno fatto con i microprocessori, i transistor, perché prima si andava a valvole, c'è stata un'evoluzione spaventosa e si dice che questa evoluzione si è dovuta a queste tecnologie aliene, che loro sono riusciti a carpirne gli utilizzi e piano piano hanno fatto delle cose tipo nanotecnologie e cose del genere. Allora, per quanto riguarda gli extraterrestri, io ci credo mille per mille, ti spiego perché. Quando ero ragazzo, nel 1945, sia io che gran parte dei torralbesi abbiamo visto una formazione di dischi volanti, no? Sono arrivati proprio sul cielo di Torralba e qua hanno girato di colpo. E questo, da quello che ho intuito io, forse non erano mezzi materiali, ma erano mezzi extraterrestri, magari provenienti, che, diciamo, come immagina un faro che si lancia la roba, la luce molto lontano, no? Questi potrebbero essere, diciamo, dei mezzi, diciamo, non materiali, ma forme di energia mandate da altri pianeti e vedono quello che succede sulla Terra. Io, diciamo, dal punto di vista fisico, dubito che gli extraterrestri siano arrivati sulla Terra, ma per quanto riguarda forme di energia che sono arrivate sulla Terra da altri pianeti, a quello ci credo.